Radio 24 Reportage. Natale ai tempi del Califfato. Così il terrorismo cambia le nostre abitudini. Di Raffaella Calandra. Piazza Barberini, locale che solitamente fa 40-50 coperti tutti i giorni, aveva 4 persone a mangiare, perché col fatto che aveva 2 camionette, una sulla destra e una sulla sinistra, con 10 militari, la gente proprio passa dritta, non neanche si ferma. Ma c'è anche meno gente in giro. Non è cambiato nulla, perché non si può vivere nella paura. La gente c'ha paura dalla metro e ha cambiato proprio i percorsi. Più paura ovviamente, però questo non vuol dire che dobbiamo smettere di vivere, ecco. Fiera, ci sono andata una volta sola, anziché magari 2 o 3 volte come ho fatto altri anni, ecco. Al cinema va? Devo essere sincera, l'attentato in Francia mi ha un pochino così, anche il teatro, ecco, un pochino mi ha condizionato. A Roma basta qualche passo in centro e lo capisci subito. A Milano invece all'apparenza quasi nulla sembra essere cambiato. Ma da nord a sud il trauma c'è stato anche da noi e l'effetto pure. Benvenuti nel primo Natale dell'era del terrorismo globale, quando, senza volerlo, la paura è entrata anche nelle nostre vite. I telefoni delle agenzie di viaggio squillano, ma a volte è per cancellazioni più che prenotazioni. Nelle piazze più simboliche, tra camionette dell'esercito e obiettivi presidiati, i tavolini dei ristoranti restano non di rado mezzi vuoti, così come soprattutto nelle città principali e più esposte sono le poltrone dei cinema ad indicare in modo plastico il segno di uno shock non ancora metabolizzato, e le impressioni sono confermate dalle prime analisi. Oggi viviamo un nuovo ciclo di paura legato al terrorismo internazionale, agli attentati stragisti della Jihad islamica di Parigi, naturalmente. Probabilmente quello che abbiamo di fronte è l'esigenza di un adattamento a un nuovo contesto che è di fatto cambiato, forse in maniera strutturale. L'incertezza diventa una componente probabilmente costante del nostro futuro e della nostra vita quotidiana. Dopo quella per la crisi economica e poi per i furti in casa, che ha fatto tra l'altro aumentare le vendite di armi, ora l'incertezza è alimentata dalla paura del terrorismo jihadista, e per la sua stessa natura, analizza il direttore del Censis Massimo Valeri, diventa compagna delle nostre giornate. Al momento è difficile prevedere gli impatti di questo nuovo ciclo di paura sull'economia in termini di consumi. È difficile fare una stima. Posso ricordare che si calcolò dopo l'11 settembre che quegli avvenimenti comportarono una riduzione del PIL degli Stati Uniti nell'ordine dello 0,1%. È vero anche che alcune valutazioni dicono che quel timore durò soltanto 3 mesi, poi si ritornò ad una vita normale. È soprattutto il settore dei viaggi che potrebbe avere una ricaduta maggiore rispetto alla paura attentati? Questo è il primo elemento che si sta diffondendo nel sentiment, nella percezione diffusa. Si registrano delle cancellazioni di viaggi, di prenotazioni. Il primo atteggiamento è rinunciare a prendere l'aereo, soprattutto per fare viaggi, soprattutto nelle aree considerate a rischio. Bisognerà vedere di qui ai prossimi mesi quanto questa componente di timori legati a possibili eventi traumatici e drammatici rientri in un, come dire, circuito razionale di presa di posizioni che poi riportino a prendere gli aerei, a fare i viaggi. Noi in questi anni abbiamo vissuto una grande espansione dei viaggi internazionali, soprattutto perché con la riduzione dei voli, dei costi dei voli e con la riduzione anche delle prenotazioni grazie alle piattaforme digitali, c'è stata una grande espansione, anche, voglio dire, successiva a episodi che pure hanno connotato le cronache con attentati e quant'altro. In questo momento rileviamo che c'è un atteggiamento a rinunciare ai viaggi. Bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto bisognerà vedere se, come ci auguriamo, non accada nulla, soprattutto sul suolo italiano, sul territorio italiano, perché ad oggi noi siamo stati preservati da attentati che invece hanno drammaticamente scosso altri paesi. Quando i terroristi uccidono ai tavolini di un ristorante, durante un concerto o allo stadio, quando inneggia al califfato chi prova a sgozzare un passeggero della metro, come è stato a Londra, si capisce allora come la minaccia possa essere davvero dappertutto. E allora bisogna scegliere se andare avanti come se nulla fosse, come se Milano e Roma, soprattutto ora durante il Giubileo, non fossero un obiettivo del Califfato, o invece fare i conti con la paura che subito dopo le stragi di Parigi del 13 novembre è diventata una presenza concreta, più tangibile. L'ultimo scorcio del 2015 racconta allora di un'Italia che si ritrova a rivedere le proprie abitudini e a volte, come confessano questi romani a Nazareno Orlandi, è indotta anche a rinunciare. Dopo quello che è successo a Parigi ho pensato di non andare al concerto dei Negramaro al Palo all'Ottomatica. Avevo i biglietti e poi li ho ceduti tramite un passaparola su Facebook, proprio perché ho avuto paura di andare. Dopo i fatti sono rimasto particolarmente impressionato da ciò. I fatti di Parigi sono successi insomma proprio in un concerto, quindi questo mi ha colpito. Guarda, recentemente sono stata a vedere uno spettacolo da Rai e ti devo dire si percepisce un po', c'è un po' così di paura, sarà che i luoghi di ritrovo, insomma. Sono andata, però ecco, ho notato un certo cambiamento. Teatro non ci sono mai andato, per cui non ci vado. E però allo stadio non ci vado perché c'ho paura, questa è la verità, c'ho paura. Roma che a Milano, più nella capitale, dove forse proprio il rafforzamento dei controlli rende più percepibile la minaccia, che sotto al Duomo, dove comunque un ebreo ortodosso è stato accoltellato per strada e l'odio razziale resta sullo sfondo. In questo Natale, ai tempi del Califfato, si accettano i controlli più di buon cuore e le rafforzate misure di sicurezza. Si accetta la coda per consentire le verifiche col metal detector o i cambiamenti nelle stazioni con i gate per raggiungere i binari che costringono anche i ritardatari ad arrivare con largo anticipo. Ma davanti alla Scala di Milano, accompagnati dallo sferragliare dei tram, coppie in abito lungo si infilano nel teatro del Piermarini o corrono comunque verso i cinema, con qualche timore in più, certo, confidano a Valeria Grandi, ma con ancora più pragmatismo. Cambiato i programmi no, e cambiato il modo di vivere no, però sicuramente è un pensiero che non lascia tranquilli. Andate al cinema? Andiamo al cinema, giriamo, viaggiamo, però anche adesso siamo qua, siamo entrati al Duomo, tutta questa sicurezza fa piacere perché finalmente c'è, cosa che prima non c'era, però dall'altra parte non è un bel vivere. Meglio non farsi sopraffare dalla paura, se no si va più da nessuna parte. No. Viaggi, ristoranti. No, è capitato la settimana dopo che è accaduto di passare vicino all'Alcatraz e un attimo ho avuto un momento in cui ho pensato, mi ricorda molto il Bataclan. Non avete paura? Non vi è mai passato per la testa? Oddio no, non entro in quel posto. Più probabile che mi cada un vaso di fiori da un balcone, mi centri, mi uccida, che un terrorista. No, l'unica cosa su cui magari andrebbe aumentata un po' la sicurezza sono i treni, perché i controlli ce ne sono pochi. State andando alla Scala? Non avete paura? No, c'è sempre un po' il pensiero che possa succedere qualcosa da un momento all'altro, però si va avanti. Non rinunciate a niente? No. No. Nelle due città più importanti d'Italia, la paura del terrorismo ha svuotato le sale di cinema, registra l'osservatorio della SIAE, a conferma che, anche se meno che nel resto dell'Europa, in questo Natale anche noi abbiamo modificato in parte qualche abitudine. Così il 6% degli italiani, secondo un sondaggio SVG per Confesercenti, ha rinunciato al viaggio programmato, il 7% ha modificato la destinazione e il 22% resta incerto, ma prevale chi resta fermo nelle proprie scelte. Nei giorni subito dopo le stragi di Parigi le cancellazioni però hanno sfiorato il 40%. Questa però, assicura il presidente della FIAVET, Jacopo Ria, è una crisi assai diversa da quella dell'11 settembre. Sulle alcune capitali europee c'è stato un leggero calo. Nei primi giorni dopo l'attentato ci sono state cancellazioni, molte persone non sono andate, ad esempio a Parigi, perché anche alcune attrazioni erano chiuse. Poi dopo, devo dire, hanno ricominciato a riprendere la normale attività. All'inizio c'è stato un calo, diciamo così, di prenotazioni anche su altre destinazioni, ma dopo qualche giorno la situazione è ripartita. Io ricordo quando ci fu la prima guerra del Golfo, dove mi ricordo per 2 settimane, 3 settimane non suonavano neanche i telefoni in ufficio e quindi si parlava di grande crisi. Oggi c'è un atteggiamento più fatalista. Possiamo dire che si è ristretto il mondo in cui viaggiare? Si è un po' ristretto il mondo, sì, da questo punto di vista sicuramente. Natale dell'era comunque del terrorismo globale, che comunque c'è, un Natale più italiano? C'è un certo ritorno verso l'Italia, questo sì, è stato evidenziato anche negli ultimi sondaggi. Sul fronte della paura del terrorismo, al confronto con quanto è successo dopo l'attacco alle Torri Gemelle del 2001, che tipo di differenze o similitudini ci sono? Differenze molte, perché comunque sia si trattava evidentemente di una situazione percepita in maniera diversa, più a guerra, diciamo così. Oggi forse, anche se lo è, ma è in senso generale, si ha una percezione diversa. Come dicevo, mi sembra che siamo diventati più fatalisti, dove comunque sia non io quei giorni me li voglio godere e non mi faccio, diciamo, condizionare. Condizionare in maniera 100%. Poi magari posso dire, forse a Parigi potrei andarci, o forse a gennaio o febbraio, senza doverci andare per forza per l'ultimo dell'anno. E allora forse, col trolley in una mano e il biglietto per un teatro nell'altra, non ci resta che dire: io speriamo che me la cavo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.